cucina, devo dormirci in cucina, dormirci fino a domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci pure stamattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte, e altrimenti sono botte, altrimenti sono ammazzate. Vabbè, le ho prese, però le ho pure date. Finisce che sbaglia, finisce che sbaglia, ci rimette la moglie. E io per esempio giocavo ai cavalli, e adesso è normale che dormo in cucina. Devo dormirci in cucina, dormirci fino a domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci pure domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte, e altrimenti sono botte, altrimenti sono ammazzate. Vabbè, le ho prese, però le ho pure date. Date.